Ciao, sono una pasta di avena tutta fibre. Il mio sogno è incontrare un filo d'olio naturale come me, purché extravergine. Con i mezzi rigatoni di avena Felicia, il benessere non è mai stato così invitante. Felicia, fatti di un'altra pasta. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. Ed eccoci qui, come quasi tutti i giovedì sera su runtimeradio.it, la vostra radio preferita dove ascoltare noi che siamo qui e parliamo di cose. Insomma, penso che oramai l'avete capito. E insieme a me c'è ovviamente Carlo Sant'Agostino, ciao! Buonasera a tutti, eccomi qua. Come va? Buonasera, ti sento pimpante questa sera. Sì, sì, mi sono rimesso in piedi dopo i bagordi di Pasqua e i bagordi dell'ospedale dei giorni scorsi. L'ospedale, sei stato all'ospedale? Comunque tutto a posto. Sì, mi hanno affettato mezza spalla, niente di grave, dai. Mi hanno tolto una ciste. Ah, ok. No, vabbè, non sono sopravvissuto. Non sapevamo. Vabbè, l'importante è che è tutto a posto, che non ci siano postumi. Davide Gatti. Eccomi qua, buonasera. Io, contrariamente a lui, ho i postumi della Pasqua in questo momento, sono in coma totale. Ma è stata dura stavolta, devo dire. Più passano gli anni. Carlo, hai perso un 30 grammi? Sei dimagrito quindi? Un 5 kg. Con 5 kg? Cioè, sì. Era una cista dei 5 kg, scusa, fammi capire. No, nel senso che mi hanno messo anche un po' a dieta. Quindi. Ah, ok. Ah, era anche ora, insomma, che i medici... Salutiamo intanto Walter che già ci è venuto a trovare in chat, salutiamo invece Deborah che purtroppo questa sera ha una live, non potrà ascoltarci, ma ci recupererà. Può avere la live. Ma lei è una youtuber, quindi fa le live ogni tanto, insomma, quindi... Giocano a Sherlock Holmes questa sera, quindi se volete andate a vedere lei invece di ascoltare noi. Però ascoltate noi e giocate a Sherlock Holmes. Scherzo, naturalmente. Ci dispiace che erano in podcast. Esatto. Comunque ci dispiace che siamo stati vagamente assenti una settimana, ma abbiamo poi cercato di recuperare anche una puntata, insomma, di altro tipo. Abbiamo provato a fare una puntata di Pasqua, poi non ci siamo riusciti perché l'altra settimana poi Michela non stava tanto bene, quindi abbiamo preferito, insomma, non andare in live. Però detto questo, poi siamo ritornati perché sapete che ogni qualche mesetto, ogni tanto una o due settimane di pausa quando eravamo futuro, se la prende un po' per riorganizzare i piani editoriali, un po' per tante altre cose. Questa puntata, come sapete, parleremo dei fumetti italiani degli anni 70 e 80, quindi poi Carlo ci spiegherà tutto, ma voglio immediatamente dirvi di cosa parleremo la prossima settimana, che è una puntata alla quale io tengo molto, e durante questo mese probabilmente è un tema che affronteremo in diverse declinazioni, naturalmente, che è quello un po' dell'invalidità, quindi dell'handicap visto con la sensibilità degli anni 70 e 80, non solo come veniva percepito, come era la vita magari che facevano alcune persone con determinati magari handicap, appunto qualsiasi tipo di problematiche potesse avere, ma soprattutto che tipo di sensibilità avevano le istituzioni verso queste persone e soprattutto la scuola, che è una cosa abbastanza importante. E vi renderete conto che per quanto ci siano ancora delle criticità anche oggi, insomma, in 40 anni abbiamo fatto molta strada, grazie al cielo, insomma, da questo punto di vista, e ognuno di noi avrà modo di raccontare magari esperienze rispetto a quello che abbiamo non vissuto magari direttamente, anche sì se è capitato, ma ovviamente anche vissuto indirettamente, quindi vedendo magari tante volte c'era magari il bambino sfortunato insieme a te nella tua classe e vedere come veniva gestita un po' la cosa, insomma, e magari che tipo di disagio creava, no? Un po' questo tipo di situazione. Sarà una puntata un po' diversa dal solito, ma è anche giusto, perché quando noi pensammo, quando eravamo futuro all'inizio, avevamo pensato di intercalare delle puntate più nerd, più simpatiche, più legate ovviamente ai nostri ricordi, anche puntate un po' più legate magari a aspetti di sensibilità o fatti di società e costume, che comunque non sempre erano allegre, perché non è che negli anni 70 e 80 ridevamo, leggevamo i fumetti e ci cotonavamo i capelli, insomma, c'erano anche altre problematiche, giusto Carlo? No, leggevamo i fumetti, come... ovvio, certo, disgraziato. Va bene, quindi cosa facciamo? Iniziamo con l'angolo della posta? Prima? Allora, iniziamo con l'angolo della posta. Io direi che prima leggiamo i due, mi sa che ci sono due messaggi, io manco, mi so, perché queste cose le ho archiviate un po' di tempo fa e non mi ricordo neanche più chi è che ce l'ha portata in mano, ce l'ho io. Allora, vediamo se si apre. C'è un messaggio di testo. Ah, c'è soltanto un messaggio, penso, no? Giusto? Sì, sì, sì. Allora, vai tu, Davide, sì. Ti diverti di più. Vai tu, Davide, è una parolona. Un cazzo, dici. No, è perché anch'io devo trovarla, ho lo stesso problema, aspetta un secondo. Ma perché non sentiamo prima l'audio? Magari? Ah, ok, allora va bene, aspetta, perché non ero preparato. Siamo tutti. Ce l'hai fatto te, Simona. Cioè, sì, ma l'avevamo sentito, pensavamo che fossi pronto a schiacciare il bottone magico. Tu, parti. Pensavi. Vediamo che facciamo. Pensiamo, perché in realtà io mi organizzo, ma poi mi disorganizzo perché mentre che faccio le cose me le dimentico. Va bene, allora. Ma io ci sono. Iniziamo allora da questo file audio. Questo file audio dura 3 minuti, lo ascoltiamo perché comunque è importante. L'audio è di Giovanni, ce l'ha mandato in relazione alla puntata che abbiamo fatto ovviamente sulla banda cittadina, tutto quel discorso che abbiamo fatto ovviamente sul CB e il mondo radioamatoriale. Chiaramente è interessante quello che lui dice, ma noi ovviamente risponderemo perché insomma è giusto precisare sulla segnalazione che lui ci fa. Che adesso non si sa per quale ragione non funziona. Non funziona più perché. Io sono pronto a leggere intanto che tu ci sistemi il problema. Vai insomma. Allora abbiamo il messaggio di Alessandro Spagnoletti, che tra l'altro è un mio caro amico, vi comunico, che dice: per quanto giovane mi ha riportato a ricordare un sacco di esperienze fatte da bambino, come quando mi avevano convinto a mettere la maionese sull'antenna per abbassare le onde stazionali. Questo non l'ho mai sentito. Indimenticabile figura di M, nel senso, come ne parlavamo, no, che i radioamatori raccontavano delle tavanate per vedere se qualcuno ci cascava, no? Ecco, lui uno di quelli che sentiva che questi è cascato, certo. Sì, mettiamo la maionese, guarda che va di brutto, e lui subito lì a mettere la maionese. Sei stato tu, di la verità. No, io non ero un radioamatore in quel periodo, come già sapete, però insomma. Però se tu avessi saputo questa leggenda gliel'avresti detta, diciamo. Avrei fatto anche io un bel po', ne avrei fatto. Mi sembra anche giusto. Tipo, con la lingua dovete toccare un filo del 220 e la vostra radio aumenterà moltissimo di potenza. Beh, io ci sono cascato, ve lo dico al volo, una volta mi scrivevano, nel telefono mi dicevano: per fare andare sul computer devi fare F O R M A, mi hanno dato le parole per scrivere format C2.S, tutto il testo, una lettera alla volta. Ecco, adesso schiaccia enter e poi ciao. Questa è una bastardata, però scusa, lo so, la maionese sì, è uno scherzo innocente, quello è un danno, è diverso insomma. Lo so, per ragazzini. Ma io ad esempio mi ricordo che per i primi tempi ero fidanzato con mia moglie, quando gli veniva il singhiozzo gli dicevo: leccati il palmo della mano, proprio bello, proprio così, e poi passa il palmo della mano sul lobo dell'orecchio destro e siccome che quando l'ha fatto per la prima volta gli è passato il singhiozzo, da lì in poi lei è andata avanti per decenni alle cose. Il mago di Segrate sei. No vabbè, quella è chiaramente capitata la casualità, oppure anche un condizionamento mentale, chi lo sa, no? Non è che comunque effetto placebo. C'è un ultimo messaggio cortissimo. Vai. Comunque di Morgan da Facebook, che dice, e non lo comprendo questo messaggio, io ve lo leggo così come è scritto: le nottate appassate a guerre in mare e mandare portanti musicali 73-51. È un messaggio cifrato che capirà solo. Sì, massonico, un messaggio massonico. No, vabbè, a parte i codici numerici del baracchino e via dicendo, le portanti era quello che dicevamo, nel senso che tu ti avvicinavi alla casa di qualcuno che magari ti stava antipatico, con un buon amplificatore premevi la portante e lui non poteva più parlare, e quindi dopo scattava anche la caccia a chi era lo stronzo che faceva questa cosa. Un'altra cosa invece che ci siamo dimenticati, tra l'altro, era parlare del mito dell'escopost. Ma questo purtroppo è troppo lungo adesso per riparlarne, adesso ne parleremo probabilmente, una volta faremo un appendice a questa cosa, perché il mito dell'Escopost, che esisteva questo, cioè comunque il controllo da parte del ministero riguardo alle radiofrequenze, però c'era, capito, sta leggenda di sto furgone senza targa, senza insegne, senza niente, con il radar sopra che girava durante la notte, che quando nessuno lo vedeva, e i carabinieri col mitra aveva dentro il furgone. Esatto, però era bianco, attenzione, perché, sì, e questa ricorda un po' la leggenda del famoso taxi fantasma di Roma. Vabbè, sì. Comunque, detto questo, ci ascoltiamo Giovanni. Faccio un vocale, scusami Simone, non riesco a scrivere in questo momento, però nella puntata ogni tanto è capitato di percepire come se voi parlando steste un pochino mischiando tra loro, incrociando delle dinamiche tipiche della banda CB con delle altre dinamiche tipiche del servizio radioamatoriale, che di fatto sono due mondi che possono assomigliare ma non si incontrano mai, o meglio si incontrano nella realtà, perché a un certo punto il radioamatore sveste i panni da radioamatore e entra nella banda cittadina come civile, come persona normale che fa un uso normale della radio, delle frequenze. Ma nel momento in cui il radioamatore esce dalla banda cittadina o dalle altre bande legalizzate, diciamo rese pubbliche, deve per forza, per legge, indossare i panni del radioamatore, perché in quel momento sta facendo servizio radioamatoriale. Questo comporta che il radioamatore, che possa apparire, che può apparire impostato, che parla in un certo modo perché non vuole che tu capisca, in realtà non è così. Il radioamatore parla in quel modo perché lui non può parlare in un altro modo, cioè il radioamatore quando prende la patente fa quello che è di fatto una sorta di giuramento, non è un vero giuramento, però accetta le imposizioni che la normativa gli impone, appunto. Quindi le comunicazioni che deve fare il radioamatore, che può fare il radioamatore, sono esclusivamente comunicazioni tecniche che riguardano l'ambito radioamatoriale. Lo può fare in un certo modo, utilizzando un linguaggio tecnico, utilizzando appunto l'alfabeto fonetico per i nominativi, e deve rispettare queste imposizioni, perché un radioamatore che venga scoperto da chi poi controlla, tipo da noi lo fa il MISE, venga scoperto a fare gli affari suoi, a fare attività che non è riconducibile all'attività radioamatoriale, è sanzionabile anche a livello penale. Quindi di fatto anche volendosi sforzare di non dare un peso maggiore o minore al radioamatore piuttosto che al CB, e l'impostazione che il radioamatore deve tenere quando fa attività radiomateriale è per forza diversa, e soprattutto il radioamatore non può trasmettere nella banda CB. Per questo motivo io dico si sono mischiate un po' le cose, perché non è che quando tu fai CB e poi vuoi sembrare un po' più professionale, invece ti sposti sulle bande radioamatoriali, cioè può sembrare, ma non è così. Tu ti sposti sulle bande radioamatoriali se sei un radioamatore e se hai l'autorizzazione ministeriale. Questo qui è un po' il concetto di base su cui si fonda tutto. Dopodiché è molto interessante tutti quegli aspetti di evoluzione legati all'ambito radioamatoriale, quindi DX, ma non solo, cioè c'è veramente un mondo di cose che si possono fare quando sei radioamatore, e sono tutte molto interessanti, divertenti, c'è moltissima teoria ma anche moltissima pratica, c'è veramente un mondo dietro, però lo devi fare con queste procedure, e quindi, torno a dire, appare come una roba che il radioamatore vuole sembrare più importante di quello che è, ma non è così, se vuoi credermi. Fine, insomma, questo era il mio piccolo ragionamento. Bene, allora Precisiamo una cosa, perché giustamente Walter dice questo messaggio è troppo tecnico. Cioè, fondamentalmente chi usava la banda cittadina, quindi si divertiva con la radio, usava dei codici che erano, diciamo, una sorta di codici similari a quelli che si usavano nei primi internet, tanto per capirci, mentre che chi faceva il radioamatore doveva usare dei codici di comunicazione strettamente codificati, perché quello era il modo in cui poteva essere utilizzata la banda radioamatoriale. E infatti, per essere radioamatori bisogna avere la patente, e non si può ovviamente usare la banda radioamatoriale per dire ciao Nina, come stai, e buttare la pasta e storie, va, diciamo, questa è la sostanza. Quello che ho poi precisato anche a Giovanni, e ci tengo a precisarlo perché se lui comunque ce l'ha fatto notare, evidentemente questa magari è un'altra osservazione che potrebbero aver fatto anche altre persone, che la puntata non voleva essere una puntata tecnica, né una puntata che creasse un distinguo tra CB e radioamatoriale. Ovviamente le due cose in qualche maniera si toccano, perché chi ci ha avuto dei CB particolari, quindi dei baracchini particolari, ovviamente poteva raggiungere le bande radioamatoriali pur non potendolo fare, ma lo poteva fare, e quindi ovviamente si creavano un po' questi contrasti, queste situazioni, però fondamentalmente sono due mondi completamente diversi. Noi quello che volevamo fare nella puntata è raccontare le nostre esperienze riguardo ovviamente quello che è stato il CB. Poi sì, chiaramente magari qualcuno ha fatto la battuta sul fatto che il radioamatore era quello un po' più impostato, roba genere, magari non vuole esserlo, è un po' come il super nerd che risulta antipatico proprio in quanto super nerd e così estremamente specifico. Però è vero pure che qualche volta qualche radioamatore, insomma, ce l'aveva un po' sta puzza al culo, insomma, diciamo. Però in realtà sì, ho capito esatto quello che intende dire Giovanni, e sono d'accordo con lui, cioè nel senso, non era comunque la nostra intenzione né generalizzare né fare ovviamente un distinguo specifico. Noi volevamo raccontare in maniera divertente comunque un mondo che era quello del CB, quindi del parlare in radio come forma di interazione alternativa al telefono e precedente ovviamente a internet. Esiste ancora, però chiaramente poi quando è esploso internet molto è andato su internet, chiaramente, perché era il modo che ti portava fuori di casa tua in qualche maniera, ti permetteva di estendere la tua possibilità di comunicare con gli altri oltre quelle che erano le normali pareti, insomma. Quindi ci sta, insomma, dai, come discorso. Poi magari torneremo a parlarne di queste cose, però non era nostra intenzione fare una puntata tecnica, e non lo sarà mai, insomma, da questo punto di vista. Carlo, iniziamo invece con il succo. Va bene, va bene. Entriamo quindi nel cuore della puntata. La puntata è i fumetti italiani. Quindi questa, diciamo subito che è una prima puntata introduttiva, generale all'argomento sul fumetto. Il fumetto italiano genererà sicuramente puntate successive di approfondimento su singoli filoni. Possiamo sicuramente dire che prossimamente dedicheremo una puntata solo al discorso Disney in Italia, quindi Disney Italia, i personaggi, le storie Disney, tutti i personaggi inventati e disegnati in Italia, perché quello sicuramente Topolino settimanale alla Disney Italia è un discorso che richiederebbe troppo tempo per essere trattato in questa puntata generale. E poi un'altra puntata divertente sicuramente sarà quella sul fumetto erotico italiano degli anni 70-80, perché il fumetto erotico italiano ha avuto in quegli anni un discreto successo, e poi perché lì abbiamo anche un ospite particolare che se ne intende, quindi avremo anche un ospite, diciamo, dedicato. Esatto. Però torniamo quindi al succo, quindi partiamo con la storia del fumetto italiano. Facciamo così, io racconterò un po' la storia del fumetto italiano, e quando tratteremo dei punti in cui ci saranno personaggi, fumetti, storie eccetera che ci ricordano, inizieremo anche a ricordare nostri ricordi e nostre aneddoti e altro, tutta la parte esperienziale che ci piace tanto, insomma. Esattamente. Quindi, quando è che inizia la storia del fumetto italiano? Esiste una data precisa. Infatti, il 27 dicembre del 1908 in Italia fu pubblicato il Corriere dei Piccoli, che viene considerato il primo giornale a fumetti italiano. È stata la prima rivista settimanale di fumetti italiana in assoluto, e anche se in realtà, se proprio vogliamo essere precisi, il fumetto fumetto, mentre negli Stati Uniti nasceva proprio come il comics, cioè la nuvoletta nel quale c'era il testo, da noi per voi, per un pregiudizio culturale, ma anche per una motivazione tecnica che davano come problema di stampa dei disegni e poi successivo lettering, ricordiamo siamo nel 1908, quindi si faceva tutto a mano, in realtà i fumetti in Italia vengono tolti, i fumetti intesi proprio come nuvolette, ma i fumetti che vengono pubblicati in Italia, anche gli adattamenti dei fumetti statunitensi, vengono pubblicati come disegni nelle strisce e il testo viene messo sotto al disegno come didascalia e viene quasi sempre, anzi sempre all'inizio, fatto in rima, quindi qualcosa che ricordasse un po' la poesia. Sin da subito, perché a noi in Italia ci piacciono questi vezzi culturali, no? Se non sono abbastanza intellettuali, noi non gli eravamo. Tra l'altro scusa, interrompo soltanto per dire, io ricordo alcuni numeri del Corriere dei Piccoli degli anni 50 che avevamo su a San Savino, che ovviamente adesso non ci sono più, giustamente, perché sennò sarebbe troppo manna dal cielo, dove c'era comunque tanto razzismo, diciamo, anche comunque c'erano delle... Sì, infatti il primo fumetto italiano in assoluto si chiama Bill Bol Bull di Attilio Mussino ed è appunto un racconto di un bambino nero di un villaggio, anche se all'epoca dicevano negro, che non si negro, dire, sì, ovviamente. Sì. Perché in quel momento, in quegli anni, quei primi anni del Novecento, c'era il colonialismo italiano. Quindi il colonialismo, il fatto che l'Italia colonizzava quella parte, diciamo, nord africana, era l'argomento, diciamo, più trattato, e quindi anche il fumetto riportava, il primo fumetto italiano sono appunto i racconti di questo bambino nero nel suo villaggio africano che fa cose, ma ovviamente se si legge oggi si denota come c'era un razzismo di fondo comunque, sì. Ecco, ricordiamoci che quelli sono gli anni della precedente, la prima guerra mondiale, il primo dopoguerra, fascismo. L'altro personaggio, insieme al Bilbo al Bull, primo personaggio a fumetti italiano, si chiamava Quadratino di Antonio Rubino, che dagli esordi fino al 1914 fanno questi fumetti, che il formato pubblicati sul Corriere dei Piccoli, il formato si mantiene in alterato e soprattutto anche nel primo dopoguerra, fino agli anni 20, il Corriere dei Piccoli, rivolgendosi essenzialmente al pubblico di bambini, collocò il fumetto all'interno di un contesto essenzialmente infantile. Uno dei personaggi che furono creati e che ebbero poi più successo in assoluto e proseguirono per tantissimi anni, arrivarono fino agli anni 70 e 80, per esempio, fu il signor Bonaventura di Sergio Toffano. Qui comincia l'avventura del signor Bonaventura. Questo me lo ricordo pure io. Esatto. Dicevo anche io, Carlo, io me lo ricordo più come cartone animato che come fumetto quando eravamo piccoli negli anni 70. Sì. E comunque dicevo, quindi l'approccio era essenzialmente infantile, quindi mentre nello stesso periodo, in quell'inizio del Novecento, negli Stati Uniti per esempio i quotidiani pubblicavano delle strisce a fumetti perché avevano anche successo e contribuivano a far crescere le vendite e venivano letti anche dagli adulti, in Italia questi stessi prodotti venivano considerati, sempre a causa dei nostri pregiudizi culturali, borghesi, eccetera, passatempi infantili. Quindi il fumetto in Italia era soltanto per i bambini all'inizio. Le cose iniziano a cambiare, diciamo, intorno agli anni 20, la metà degli anni 20, esce ad inizio un concorrente del Corriere dei Piccoli nel 1923, che però era di propaganda fascista, che si chiamava Il Balilla. Poi originali erano sempre, esatto. Originalissimi, insomma. Esatto, ma soprattutto pochi mesi più tardi, sempre nel 23, uscì un altro fondamento del fumetto italiano, della storia del fumetto italiano, perché uscì Il Giornalino delle edizioni paoline, concorrente di forte ispirazione cattolica. Il Giornalino poi è un giornale che è durato, non so se esce ancora oggi, ma sicuramente è uscito per tantissimi anni, e io me lo ricordo e lo compravo, e tantissimi personaggi, tantissime cose sono nate su Il Giornalino delle edizioni Palline. Quindi poi nel 24 viene pubblicato quello che si ritiene il primo albo a fumetti, quindi non un contenitore come era il Corriere dei Piccoli o come il Giornalino, ma esce un volume di una collana per ragazzi che si chiama Le burle di Furbicchio ai maghi, che è ritenuto il primo albo a fumetti pubblicato italiano, di cui si erano perse le tracce. Per anni si riteneva che un altro albo fosse Le avventure di un ballillino, una storia a fumetti di Mario Nebrini, sempre di matrice ovviamente fascista. In realtà uscì prima questo albo. Poi nel 1930 era esordito anche in Italia un supplemento alla Gazzetta pubblicato dalla Nerbini che si chiamava Topolino, che era l'edizione italiana di Mickey Mouse. Anche in questo caso, quindi non nasce come fumetto indipendente, cioè nasce all'interno di un giornale praticamente. Prima come supplemento, poi diventa una propria testata indipendente, un settimanale vero e proprio. Io nel documento ho messo la scansione del numero 1, anno 1 di Topolino del 31 dicembre del 32, quando diventa albo fumetti indipendente, e come vedete i fumetti non esistono ancora, cioè abbiamo Topolino che era americano, però sempre con i quadrati e sotto le didascalie in rima, perché in realtà la prima, diciamo, rappresentazione, quindi il fatto che vengono messe le nuvolette, dovevo aspettare addirittura un settimanale pubblicato dal Lotario Vecchi, che si chiamava Giumbo, introdusse in Italia in racconti di avventure illustrate, che presentava storie di produzione britannica e propose una convivenza tra la vecchia didascalia e la nuvoletta. Ok. Però in pratica si usava sempre la didascalia. Il 14 ottobre del 34 esce un altro, sempre la Nerbini, che era la casa editrice che pubblicava Topolino, esce con un'altra rivista importante per la storia del fumetto italiano, che è l'Avventuroso. Ve lo ricordate l'Avventuroso? No. L'avrete visto forse qualche volta? No. Vabbè, l'Avventuroso no. Si trovava dai parrucchieri spesso, l'Avventuroso. Tu te lo ricordi, Davide? No. Guarda, forse l'avrò visto, ma magari non ho in mente la testata, capito? Cioè, nel senso... Vabbè, comunque questa fu la prima pubblicazione a presentare le strisce a fumetti complete con le nuvolette, che fino ad allora avevano sostituito le didascalie in rima. Quindi arriviamo alla metà degli anni 30 per avere finalmente le nuvolette. Sull'Avventuroso vengono pubblicate, nascono tantissime storie italiane, di fumetti italiani, come Virus, il mago della foresta morta, Dick Fulmine, autori si formano come Rino Albertarelli, Pedrocchi, Walter Morino, tanti autori di quegli anni 30, ma la cosa importante è che quella testata viene ceduta a un certo punto a un editore, a un signore che il nome vi dirà sicuramente qualcosa, perché viene ceduta a un certo Gianluigi Bonelli, che la trasforma in un albo e mette le basi lì per la sua, diciamo, inizio di carriera editoriale, no? Che lo porterà alla nascita della famosissima Sergio Bonelli Editore. Okay? Nello stesso periodo, nel 1933, esordiscono anche Il Modello e L'Intrepido. Non ditemi che non conoscete neanche Il Modello e L'Intrepido. Sì, come no, certo. Almeno quelle. Okay. Pubblicate quindi a partire dal 1935 dai fratelli Del Duca e dalla casa editrice Universo. Nascono e producono per tantissimi anni, per una lunghissima vita editoriale, materiale italiano. C'è anche un'altra testata che si chiama Argento Vivo, che esce nel 1936, dove muovono i primi passi autori come Walter Morino e soprattutto Nino Pagò, lo conoscete, è l'inventore del famoso draghetto Grisù, quello che vuol fare il pompiere. No? Voglio fare il pompiere. Esatto. Quindi in concorrenza con la Virtuoso, la Nembrini quindi cerca di imitare il successo della Nembrini che ha con Topolino, con I Tre Porcellini, l'Audace, che pubblicava quindi materiale americano, e quindi decidono di pubblicare materiale italiano. All'inizio pubblicano delle storie che peccano un po' di ingenuità e quindi non riescono a contrastare il successo della Nembrini che pubblica storie americane. Poi l'arrivo in direzione, come dicevo prima, di Gianluigi Bonelli, oltre a firmare sceneggiature di qualità, riesce a ingaggiare dei talenti dell'epoca, tra cui Benito Iacovitti, un debuttante Benito Iacovitti che poi conosce, vi ricordate Benito Iacovitti, l'autore di Cocco Bill per esempio, no? Non sapevo che si chiamasse Benito, vedi te, però Iacovitti era un nome all'epoca, diciamo che Benito era un nome che non ricordava, cioè, sì, è diventato scomodo dopo, sì, è vera ragione, sì, dopo. Comunque sì, stiamo parlando comunque di quegli anni del 35-36, sì. Ma diciamo, io a Covitti lo conosco perché tutti hanno visto le sue scenette piene di salami, maniche, più che altro dal terreno. Sì, è importante perché Iacovitti è stato il primo ideatore di un diario illustrato in Italia. Cioè, fino a prima del diario Iacovitti, inventato negli anni 70, nelle scuole i diari scolastici erano diari scolastici, cioè avevi il diario con fogli bianchi con la data. Iacovitti è stato il primo a dire: facciamo un diario dove però dentro ci metto le vignette, le cose. Quindi fu il mio diario per diverse volte. Fu il diario di tutti, perché fu un fulmine a ciel sereno. Cioè, abituati ad avere il diario senza niente, iniziamo ad avere il diario, da lì poi c'è stata l'esplosione, la nascita di tutti i diari che ci sono ancora oggi, quindi è il diario con i cartoni animati, il diario con però il primo a inventare questa formula del diario scolastico arricchito da contenuti divertenti fu Iacovitti. Quindi, ma ritorniamo un pochino alla storia, no? Quindi il regime fascista cosa fece nel 38? Mise un limite alle testate che pubblicavano fumetti americani, la famosa autarchia, no? L'unica eccezione fu Topolino, che fu permesso. Però questa autarchia portò alla nascita di ulteriori fumetti italiani ispirati magari a fumetti di ispirazione americana, ma che furono creati in Italia. Per esempio Dick Fulmine, un poliziotto italo-americano pubblicato dall'editrice Vittoria, poi sul Vittorioso, l'altro, quello che vi citavo, già solo il titolo, il Vittorioso, cioè. Esatto, l'aviatore romano il legionario, sull'audace Virus il mago della foresta morta, che era un fumetto di fantascienza del 39 creato da Federico Pedrocchi e Walter Molino, e il dottor Faust di Federico Pedrocchi nel 39, insomma, andarono avanti. Però poi ci fu la seconda guerra mondiale e quindi addirittura lì anche Topolino interrompe le pubblicazioni dal 43 e le riprese nel 45. Il Corriere del Piccolo diventò ricordiamo che per precisazione storica Topolino era l'unico giornaletto autorizzato che veniva dall'esterno, perché Disney era un simpatizzante, diciamo. Questo non lo so, ma può essere una come non lo sai, insomma, dai, no, vabbè. Non so se questa era la motivazione. No, non era questa la motivazione, no, vabbè, ho scherzato chiaramente, insomma. Però in realtà durante gli anni della seconda guerra mondiale anche Topolino interruppe la pubblicazione. La carta era diventata rara, costosa, quindi questo portò però a un'innovazione, cioè gli editori, prima, se ricordate, sia il Corriere dei Piccoli che il Giornalino eccetera erano giornali albi più o meno in formato A4, diciamo, sì, dai, come sì, dimensione, sì. quindi a piccolo giornale. In realtà col fatto che la carta se, la, guarda, se, guarda, se non sbaglio il Corriere dei Piccoli non aveva neanche la copertina, cioè era già, era, c'era la testata no, sopra sì, c'era la testata sopra e già sotto c'era già il fumetto praticamente. Esattamente. Col fatto che la carta però negli anni nel 45 diventa più costosa, la Mondadori, che aveva preso i diritti, ha digitalizzato tutto, no? No. Decise di ridurre ulteriormente il formato e infatti nacque l'albo tascabile, cioè il formato Topolino, il formato quello Topolino, che tutti esatto. oggi noi conosciamo. Quello nacque proprio per il costo della carta, cioè il fatto che il formato Topolino, quello che noi conosciamo oggi e che è più o meno lo standard della dimensione dei nostri fumetti italiani, se considerate i fumetti americani sono un po' più grossi in realtà, i nostri sono più piccoli come forma i fumetti italiani generalmente, il formato tascabile, è derivato proprio da, da questo fatto di costo di stampa. Inoltre, facendolo diventare albo tascabile del 48, fu il primo albo a strisce in assoluto pubblicato in Italia, perché prima i fumetti erano pubblicati in queste tavole e quindi non erano a strisce ma erano una tavola o più tavole grandi come la pagina con le didascalie oppure i primi che mettevano fumetti. Invece con gli albi tascabili di Topolino fu pubblicato proprio a strisce, quindi con il concetto della striscia di vignette, che se infatti andate a guardare i primi albi di Topolino vedete che ogni pagina era composta da tre strisce. Poi dopo, quando iniziano a disegnare in Italia, magari c'era una striscia e le altre due erano composte, diventava più grosso, ma era proprio a strisce di fumetto. Uh-huh. Va bene, cosa succede dopo? Riprendono le pubblicazioni, l'Audace e l'Avventuroso non ripresero più se non in diverse forme, invece sia il Corriere dei Piccoli che il Giornalino ripresero le pubblicazioni e ripresero con grande successo. Gli autori del periodo come Iacovitti pubblicò delle serie di grande successo come Pippo, Pertica, Palla, Cocco, Bill, rompendo la tradizionale suddivisione delle tavole che risaliva al Corriere dei Piccoli e disegnando appunto con questi fumetti che ricordavano più, diciamo, lo stile americano. Nel genere avventuroso Franco Capriori realizzò storie come Moby Dick ambientate nei mari del sud eccetera, e poi nello stesso periodo raggiungono la massima diffusione riviste della casa editrice Universo, quindi il Monello e l'Intrepido, che pubblicavano molti fumetti inglesi e americani, ma pubblicavano anche fumetti italiani come per esempio Pedrito il Drito di Antonio Terenghi. Mi permetti, un secondo? Scusi, lo sai che devo interrompere? Perché tu hai messo questa cosa di Topolino numero uno, insomma, no? E che, come dicevi te, ovviamente non c'erano i fumetti, ma c'erano sotto le strisce in rima. E quando io ti dico, si legge malissimo, devo dire la verità, perché è un po' la scansione, un po' anche la carta che penso che sia consumata. Allora, Topolino, dal rinchiuso fatto ardito, anzi gradasso, al bestione in pieno muso scaglia dritto un grosso sasso. Bravo Topolino, bravo, bravo. La violenza, mi raccomando, sempre. Guarda che se leggete i fumetti dei vecchi ne trovate di cose. Sì, sì, ma io mi ricordo il Corriere dei Piccoli, che c'erano due fumetti che mi sono rimasti impressi. Uno era quello del bambino negro che abbiamo detto prima, e l'altro era quello del bambino che aveva la testa quadrata, non so se ve lo ricordate. Certo, l'ho detto quadratino. Ah, ok, perfetto. No, insomma, quello che era la madre che con la squadra provava a cambiare. Sì. Che poi è anche quello, se vuoi, c'è una derivazione dello stile artistico dell'epoca, del cubismo. Sì, esatto, eccetera. Quindi, insomma, ci sono varie derivazioni. Insomma. Comunque, nel dopoguerra, post seconda guerra mondiale, succede anche un'altra cosa, perché inizia. Il Topolino che inventa quel formato, diciamo, tascabile, e da qui nascono anche dei fumetti di genere avventuroso nel formato ad albo, che contiene una sola storia di un solo personaggio. è la prima volta, perché fino a quel momento c'erano questi contenitori, diciamo, dove venivano messi dentro più fumetti di autori diversi, magari brevi, ma qui nasce più o meno questo nuovo concetto. All'inizio soprattutto sono giustizieri mascherati, vedi Zorro, Tarzanidi, quelli che derivano da Tarzan, quindi vari tipi, cioè, sono i discendenti, sono i Tarzanidi. Sì, no, i Tarzanidi, diciamo che è una categorizzazione di cioè, giustiziere mascherato e Tarzanide, ok, perfetto. Sì, per esempio, categoria. No, Hakim era di Pedrazza e di Roberto Enzi, era un Tarzan, cioè un emulo di Tarzan, però si chiamava Hakim. Poi esiste i fumetti western, esistono i fumetti western, soprattutto western, perché di chiara ispirazione americana, perché in quel periodo il western, insomma, andava anche al cinema, era, diciamo, anche grazie a noi, poi, diciamo, la verità, insomma. E sì, in generale, poi noi in Italia eravamo degli ottimi produttori, sia dal punto di vista del fumetto sia dal punto di vista cinematografico, ne producevamo, diciamo, il western poi è stato reinventato, no? Sergio Leone, quindi noi reinventavamo più o meno tutto, poi vedremo. Leggendo i nominativi che hai scritto, ricordo di tutti questi nomi che ho sentito, ricordo quasi solo quelli di Tex. Sì, Tex è perché è durato tantissimo e dura ancora adesso, quindi di questa categoria qua, Tex Willer, Zagor, Hakim era abbastanza famoso, qualcuno l'ha visto sicuramente. Poi vabbè, c'è la Pantera Bionda, quella che ricorda un po' Scina, la Regina della Giungla, ma non se lo ricorda. Soggetto oltretutto a ripetuti interventi di censura da parte dell'epoca. Immagino. Poi vabbè, c'è Piccolo Sceriffo di Tiziano Torelli, che è un po' il primo fumetto pubblicato in Italia che dà un po' l'idea a quella che infatti poco dopo Gianluigi Brunelli ideò, appunto Tex Willer, che è, a parte essere uno dei personaggi di maggior successo in Italia, è anche la più duratura serie a fumetti italiana di sempre, perché è iniziato nel 48 e esce ancora oggi, quindi stiamo parlando di ormai quanto, 70 anni quasi, cioè dal 48 al 2022, quindi quindi Bonelli nel 1940, con la nascita di Tex Willer, pone queste le basi per la fondazione della Sergio Bonelli Editore, no? E quindi oltre al Tex Willer, il Piccolo Ranger, altri protagonisti del genere western di quell'epoca furono Pecos Bill, uscito nel 49, ideato da Guido Martina, Quinoa, poi dallo studio SGS e pubblicata dall'editoriale Dardo, Capitan Mickey, non so se l'avete mai sentito, il Grande Black del 54, ve lo ricordate? No. Vabbè, tanto in chat io ho pubblicato Pantera Gialla, così giusto, se è questo poi penso di sì. Pantera Bionda, Bionda, scusa Bionda, 48. Però ha pubblicato giusto Pantera Bionda, sì Bionda, ha detto gialla, non so perché ha detto gialla, esatto, è biondo, giallo, vabbè. È la stessa cosa. Vabbè, comunque il formato di Topolino viene quindi adottato con un po' come standard da tanti editori, no? Soprattutto ci fu un'altra casa di editrice italiana, che adesso sicuramente qui inizio a parlare di qualcosa che dovreste per forza ricordarvi, perché arriviamo vicino agli anni 70 e 80. Le edizioni Alpe pubblicò nel 1950 una testata che si chiamava Cucciolo, con i personaggi di Cucciolo e Beppe, creati da Giuseppe Caregaro, che si erano inizialmente ispirati a Topolino e Pippo come personaggi, no? Questo Cucciolo con Cucciolo e Beppe fu una testata che ebbe una lunghissima vita editoriale, fino alla fine degli anni 80. Vedi un po' se è questo che ho messo? 80 lire, ragazzi. Cucciolo. Sì, questi sono i primissimi. Poi, se prendi quelli degli anni 80, sono più ricordati. Anche perché poi all'interno di Cucciolo, un po' come il contenitore di Topolino, nacquero altri personaggi. All'interno furono, in questa casa editrice di Serie Alpe, nacquero molti altri personaggi nel formato libretto, tra cui Pepito, di Luciano Bottaro, ma soprattutto Tiramolla, nasce nel 52, di Roberto Renzi e Giordore Buffi. Ve lo ricordate Tiramolla? Non l'avete mai letto? Sì. Il famoso omino nero che era tipo allungabile, tipo Mr. Fantastic, insomma. Quindi questi raggiungeranno duraturo successo nei decenni successivi. Storie verranno prodotte e ristampate più volte anche da editori stranieri, quindi non solo in Italia. Avvicinandoci però a, dopo questo, comunque riguardandoli era... mentre che tu parli e io me li vado a cercare, comunque mi rivengono in mente chiaramente. Buonasera Michele, ecco, delle edicole eccetera, quella storia di Tiramolla, i bustoni quelli che c'erano, sì, nelle edicole da più, sì, il bustone, sì, 500 lire aprivi e c'era di vecchi fumetti dentro, non so, tu Davide non leggevi niente, quindi non... eri un non lettore. No, ero un non lettore, ma comunque i fumetti per esempio non li andavo neanche a prendere io, e mio padre che andava a prendere il giornale fa: volete qualcosa? Io dicevo: prendimi Topolino, prendimi un fumetto, tirava su lui a caso ogni tanto, però diciamo che in generale era Topolino il fumetto, quello che arrivava a casa la domenica insieme al giornale. Tanto salutiamo anche Marco Cipolla che è entrato in chat insieme a Michela. Davide, quando parli però sei sempre all'aeroporto Bombay Madrid, poi insomma non so perché, insomma, però comunque. E cosa succede? Adesso arriviamo negli anni 60, sì, c'è una discreta rivoluzione, perché negli anni 60 il fumetto, che in Italia, come ho detto all'inizio, viene un po', anzi senza un po', viene proprio giudicato roba solo per bambini, una cosa inutile, non culturale, strano, perché noi in Italia facciamo sempre così, così lungimiranti, esatto. In realtà negli anni 60 inizia a venire riconosciuta al fumetto una dignità artistica, di linguaggio, grazie anche a studi di autori come Umberto Eco, che pubblica un saggio nel 64 insieme ad altri autori dell'epoca, Elio Vittorini, Oreste Del Buono, eccetera. Nasce il primo Salone Internazionale del Fumetto di Bordighera nel 64, quindi il mezzo si specializza in base a diverse fasce di età, inizia a differenziare fasce di età e differenti target di potenziali lettori, e infatti nasce un fumetto rivolto a un pubblico anche colto, si parla di fumetto d'autore, e nascono riviste, per esempio nel 65 nasce Linus, la rivista fondata nel 65 da Giovanni Gandini e Oreste Dal Buono, la prima rivista italiana dedicata a fumetti, che è ancora ad oggi in edicola. E nasce Linus è italiano, io non sapevo questo. La rivista Linus è italiana, ah, certo. Okay. Sì, nasce personaggio il personaggio no. Ma ecco, la rivista che si chiama Linus, sì. La rivista italiana Linus e il personaggio invece di Charlie Brown, eccetera, quello che si ciuccia la coperta, eccetera, eccetera. No, non se la ciuccia, se la porta dietro. Sì, vabbè, quello che è. Si ciuccia il dito. Si ciuccia il dito e si porta dietro la coperta, bravo. Mafalda. Dentro Linus poi ne vedremo tantissimi di fumetti internazionali tradotti, fumetti d'autore, eccetera. Però nasce anche per esempio Eureka dell'editoriale Corno. Ecco, l'editoriale Corno è un editore che sarà importantissimo soprattutto negli anni 70 e all'inizio degli anni 80, poi purtroppo scompare. E poi anche per esempio una rivista che si chiamava Il Mago della Mondadori, che esce dal 72 fino al 1980. Nasce però ovviamente il fumetto d'autore italiano, infatti in quegli anni viene, diciamo, all'onore della cronaca, diventa famoso Ugo Pratt, con capolavori come una fumetta che si chiamava La ballata del mare salato, che è il primo episodio da cui poi nasce il suo personaggio che diventerà famosissimo, di Corto Maltese. È grande Corto Maltese. Quindi fra le testate storiche che dicevamo prima, per esempio il Corriere dei Piccoli, che negli anni 50 era diventato un po' messo i fumetti in secondo piano, invece dall'inizio degli anni 60 ha un'inversione di tendenza e quindi compaiono numerosi fumetti, quindi Ugo Pratt esce sul Corriere dei Piccoli, ma nascono anche altri autori italiani come Grazia Nidasio con Valentina Melaverde. Benito Iacovitti va a disegnare su il Corriere dei Piccoli, oltre a Cocco Bill nascono fumetti come Zorri Kid, Jack Mandolino, poi nascono sempre su questo, in questi anni escono disegnatori come Toppi, Battaglia, Uccieri, Di Gennaro, esponenti del fumetto italiano che diventa molto ispirato in quegli anni anche a un, diciamo, a una linea di fumetto adulto di origine franco-belga, quindi anche noi iniziamo come italiani a far parte un po' di quella linea del fumetto più adulto. Infatti il Corriere dei Piccoli nel 69 addirittura cambia il nome in Corriere dei Ragazzi, perché tiene conto della presenza di contenuti un po' più adulti. La Bonelli pubblica in quegli anni il Comandante Mark, che esce nel 66, ma soprattutto Zagor nel 61. Tanto se siete curiosi, ragazzi, su Amazon trovate il DVD del film di Christophe Gans, corto maltese, quindi penso sia un francese lui. Non sapevo neanche che esistesse il film. Zagor è pubblicata interamente da oltre 50 anni, quindi dopo Tex c'è Zagor, che è sempre della Bonelli, è un altro, diciamo, dei fumetti italiani che tutti almeno una volta abbiamo visto, c'è passato sotto gli occhi, sotto le mani. Tex ancora viene pubblicato? Sia Tex che Zagor, entrambi. Cioè, io vi posso fare una domanda, no? Al di là chi è ovviamente le nuove generazioni, intanto scusami, ma salutiamo anche Pietrone che ci è venuto a trovare in chat, e salutiamo anche Red Max, quindi vedete che poi alla fine piano piano vi state presentando. Tanto vi pubblico ovviamente Zagor l'immagine. E no, la domanda che io mi faccio, ma questa me la so sempre fatta ragazzi, ed è uno dei motivi per cui io non ho mai, tra i vari motivi, non ho mai empatizzato col fumetto, ma cioè tu, dopo che sono 50 anni che sei sempre uguale, no? Che non sei mai invecchiato, non sei mai stato giovane, non sei stato mai vecchio, cioè vabbè, tu dici vabbè, ci sono pure È la stessa cosa del cinema, è la stessa cosa del libro, c'è la sospensione della, come si dice, sai, la sospensione della credibilità. In pratica tu leggi e ti diverti, poi non è vero che sono sempre uguali, perché cambiano gli autori, cambiano le storie, alla fine cambiano anche gli stessi personaggi. Sì, però cioè, come la storia di Zagor, come Bart Simpson c'ha 8 anni da 25 anni, cioè, capito? Esatto, come Topolino, come Pippo, come tutti, cioè, Topolino non c'ha un'età, cioè nel senso Topolino già essendo nessuno dei fumetti ha un'età, anche se ce l'ha, in realtà un personaggio dei fumetti non ce l'ha, perché poi viene reinventato, perché poi cambia, perché poi succedono cose, quindi dipende poi dagli autori che ne prendono la direzione, prendono la mano, certo, la stessa cosa che succede nel cinema e nel libro anche, cioè, quindi ributtano praticamente, come stai dicendo, a volte ributtano, a volte invece si inventano altre cose. Poi Pietrone ci ricorda James Bond, che non invecchia mai, Sherlock Holmes, cioè, Lilith ci dice che Tex dovrebbe stare al numero 670 680, sì, siamo lì. E quindi proseguono, poi se una cosa ha successo continua ad averlo, poi metto che il successo sia eterno, ma sì, ma certo, è chiaro che la mia è un'affermazione inutile che non c'aveva nessun senso, però diciamo che tra le varie cose a volte tu dici ok, tra un film e l'altro sospendi, no, la tua l'incredulità e alla fine lo accetti, però è un fumetto che esce settimanalmente da 70 anni, no? mensile, sono 12 comunque all'anno. Tu prendi sempre delle generazioni diverse che per loro nasce questa, cioè esatto, per mio figlio nasce quest'anno Zagor, nel senso che Batman negli anni, nei decenni anzi, è cambiato molto. Quanto è cambiato Tex, cioè per esempio, no? Tanto, tantissimo. Okay. Io vabbè, per esempio Tex, se prendo i primi non mi piace per niente. Io il Tex è iniziato a piacermi quando ho letto il Tex di Magnus, che ha fatto il Tex bellissimo, il texone gigante che ha disegnato Magnus, e quello veramente è stupendo, lo rileggo ancora ogni tanto, è un capolavoro. Però in generale Tex non mi piace, però a volte quando lo prendevo in mano qualche autore che mi piaceva lo trasformava e diventava una cosa che a me piaceva, quindi dipende sempre da chi scrive la storia, dall'autore eccetera. Tex è cambiato mille milioni di volte, ma come Zagor, come tutti, cioè, non può essere possibile che un fumetto no, sia beh, certo, anche, stesso. Anche come tratto, dice, certo. Sì, sia come tratto che come storia, anche perché si adegua ovviamente alla, ai tempi. Ai tempi. Oh, la cosa bella dei fumetti come dei libri è che quando li leggi ti trasportano anche come ideologia, cose che succedevano eccetera nel periodo in cui questo era. Se tu leggi i vecchi no, però non sono leggerai il linguaggio, l'evoluzione della lingua italiana. Allora io ultimamente sto leggendo moltissimi libri e proprio in questo periodo sto leggendo L'Isola Misteriosa, no? Quindi ovviamente con tutti gli cioè il linguaggio che era quello che era, il pensiero, la sensibilità che era quello che era, però non è, cioè nel senso non è aggiornato, capito? Cioè rimane immobile nel tempo, così quello è. C'è una diversità però tra il libro tradotto inglese e in italiano e invece il fumetto o libro originale italiano dell'epoca, perché in un caso tu puoi tradurre dall'inglese del tempo e la traduzione italiana si adegua con le nuove edizioni. Nel caso del fumetto tu prendi quel fumetto lì che è uscito in quell'anno, se era scritto così te lo ritrovi scritto così, capito? A meno che non fa il remake, però anche la stessa lingua, è anche la stessa giusto, cosa è anche giusto che sia così, perché se io prendo un classico e me lo leggo, un libro parlo, è ovvio che mi immergo in quel contesto sia dal punto di vista dell'ambientazione narrativa che dal punto di vista del linguaggio descrittivo, no? Chiaramente è giusto che sia così, cioè nel senso non è che prendo già oggi il classico, sono passati 120 anni, allora aggiorniamolo, cioè nel senso i libri importanti come per esempio Il Signore degli Anelli o altri che erano libri inglesi sono stati ritradotti e riadattati in ok ambience. Ma lì perché la versione italiana la prima versione italiana è una zozzeria fondamentalmente. Lo so, però vedi che il concetto è quello, cioè se tu dovessi ritrovarti esattamente dovresti ritrovare la zozzeria che trovavi in quegli anni lì, perché erano però diciamo che uno può ancora scegliere di trovare l'edizione del 1964 e si legge quella magari volendo, è così, vabbè dai, comunque vabbè, andiamo avanti, se non finiamo più la puntata. Anche per chiacchierare, è interessante anche chiacchierare, diciamo, sì. Vai. Assolutamente. Succede un'altra cosa interessante negli anni 60, perché vengono messi gli anni 60 sono gli anni della rivoluzione della società italiana, viene messa in discussione i canoni della società e infatti nasce anche la figura dell'eroe negativo, no? La figura della personalità forte, ingegnosa, che non si riconosce nell'ordine sociale, atteggiamenti quindi di tipo anarco diventa un antieroe, e chi vi ricorda questo tipo di eroe che fa nascere un fumetto italiano che è famoso ancora oggi, di cui anzi recentemente c'è stato film, anche vabbè, Diabolic. Il film Diabolic nasce nel 62, che propone proprio un ribaltamento della morale in controtendenza rispetto al moralismo di altri fumetti dell'epoca, no? E questo è un successo dirompente, perché Diabolic è un criminale ed era il personaggio principale, ma il successo è tale da far nascere un genere intero all'intorno. Nascono altri fumetti italiani ispirati come Criminal, come Satanic, fino ad arrivare a degli epigoni strani come per esempio Sadic o Demoniac, che hanno addirittura delle cose sadomaso o di altro tipo, l'effetto arancia meccanica, diciamo così, esatto, oppure le parodie come il famosissimo Cattivic di Bond. Monti, sì, 65, sì. Cattino, del 65, che poi è stato ripreso da Silver, o Paperinik del 69, no? Fino alle parole anche cinematografiche come Arriva Dorelic del 67, che era Johnny Dorelli che faceva questa parodia, diciamo, di Diabolik. Dorelic, ve lo ricordate? Sì, Dorelic? Sì, sì, sì, sì, sì. Cioè, vagamente, però me lo ricordo, sì. Okay. E da notare anche che la presenza delle protagoniste femminili non sono più solo comprimarie, no? Ma diventano addirittura anche personaggi. Per esempio, Satanic di Magnus e Bunker era una donna fredda, crudele, ma nasce anche, sempre nel 65, nasce anche Valentina, ideata da Guido Crepax e pubblicata su Linus. Qui ti dico una cosa che mi avevi detto prima, mi hai fatto una domanda tu, Simone, ma Valentina non era un fumetto porno? No, no, porno, nasce erotico, come, ho detto. Erotico, no, nessuna delle due, ma queste serie assunsero connotazioni erotiche col tempo, addirittura all'inizio nascono, diciamo, come fumetti di avventura o comunque di azione, poi assunsero connotazioni erotiche e poi portarono alla nascita proprio del genere erotico fino ad arrivare al genere pornografico, di cui poi ci sono delle testate che si specializzano come la Edi Periodici e l'Edi di Fumetto, che monopolizzano tipo questo mercato del fumetto erotico in Italia, ma di questo, come abbiamo detto adesso, non approfondiamo, esatto, faremo una puntata, ci faremo specifica, addirittura una puntata speciale. Tra l'altro, no? È proprio una categoria cioè che si sviluppa proprio in maniera importante in Italia, quindi è anche non da parlarne perché è erotico e quindi sai un po', ma è da parlarne proprio perché comunque ha una importanza focale anche dal punto di vista della cultura, che poi dicevi te, in un momento in cui c'era proprio questa grande rivoluzione in Italia, cioè si buttava praticamente in questi media tutto quello che in realtà la società rifiutava, no, in qualche maniera, e quindi c'era questo grosso contrasto. Bello, bello, sarà una bella puntata anche quella, ovviamente. In quella puntata ci sarà la Barbie famosa, giusto? La Barbie, esatto, sì. Va bene. Comunque, alla fine degli anni 60 nasce anche le prime strisce, diciamo, di forte connotazione comico-satirica, di cui la più importante è Sturmtruppen del 68 di Bombi. Chi non ha mai letto una striscia di Sturmtruppen? Dai, non ditemi che non avete mai letto neanche Sturmtruppen. Sì, sì, voglia. Sì, anch'io sì. Okay, meno male, dai, almeno quella. Non era una roba che compravo, che non so perché la leggessi, da dove arrivasse, sicuramente l'ho letta tante volte. Ma no, quella, perché... sì, quella sì, in effetti mi ci fai pensare. Allora, diciamo che io il fumetto classico, proprio quello in bianco e nero, gli albi, che poi diciamo che non era una cosa per me, però ecco, questi qua sul truppo, cioè, ovviamente mi sono passate sotto mano, insomma, probabilmente li prendeva mio fratello, i miei fratelli più grandi li prendevano sicuramente. All'inizio Sturmtruppen usciva anche sui giornali, sui quotidiani, fu infatti il primo fumetto italiano realizzato nel formato di strisce giornaliere, ecco, cioè forse striscia proprio al giorno, proprio, ecco, forse proprio lì le vedevo, sul giornale di mio padre. Sì. E poi nacque soprattutto alla fine degli anni 60 Alan Ford di Max Bunker e Magnus, una serie molto innovativa edita dall'editoriale Corno. Era un fumetto umoristico con elementi satirici, grotteschi, e ci venivano mixati vari sottogeneri, lo spionistico, l'horror, la denuncia sociale, tutti un po' assieme. E Alan Ford ebbe un notevole successo di pubblico, di critica, e fu pubblicato per oltre 40 anni in Italia, quindi in quegli anni anche il successo del mezzo, quindi alla fine degli anni 60 e i primi anni 70, il mezzo inizia a prodare anche in televisione, no? Quindi abbiamo Gulp del 72 e soprattutto che ne abbiamo Super parlato, Gulp, ricordiamo. Esatto, ne abbiamo parlato soprattutto di Super Gulp, i fumetti, esatto, in TV. tra il 77 e l'81, Bondi, okay, sì, insieme al regista De Maria, ne fa nascere di personaggi che diventano famosi lì, ma poi diventano fumetti, perché in realtà Super Gulp era proprio un fumetto in TV, cioè erano i fumetti in TV, si chiamavano proprio così, esatto, quello che poi dopo successivamente negli anni è diventato il comic animato, poi fondamentalmente il fumetto animato, che è diventato quasi uno standard poi negli Stati Uniti, ce ne sono diversi, insomma, proprio prodotti in quella maniera lì. Invece, ecco, lì nasceva proprio come il fumetto in TV, era un contesto, diciamo, anche originale, che forse risolveva anche dei problemi dal punto di vista della velocità e dei costi produttivi, ma allo stesso tempo, come abbiamo detto nella puntata, la qualità tecnica e artistica era comunque di grande, grande livello, insomma. Lì nascono dei personaggi proprio pensati da Bombi, come Nick Carter, nasce proprio la serie fumetti in TV, Nick Carter poi diventa anche un fumetto importante di Bombi. Negli anni 70 la rivista Linus, citata prima, arriva addirittura a vendere 110.000 copie al mese, quindi una tiratura elevatissima, considerate soprattutto per un giornale di fumetti, presenta una produzione sia estera importante, ma soprattutto continua a pubblicare autori italiani come il Corto Maltese di Prat, ma soprattutto inserisce la satira con, per esempio, le vignette di Altan, di Vincino, nasce Vauro, Bobo, di Sergio Staino, insomma tutta una serie della famosa satira italiana di cui autori li conosciamo ancora oggi. Sì, ancora sulla breccia, diciamo. Ancora sulla breccia, nasce all'interno della rivista Linus degli anni 70. Ma soprattutto due case editrici, no? Quelle che monopolizzano un pochino l'ambiente del fumetto tra gli anni 70 e gli anni 80, sono innanzitutto la Bonelli, che diventa il più grande editore di fumetti italiano, perché oltre ad avere Tex e Zagor, come ho detto prima, si aggiunge nel 75 anche Mister No, nel 74 Ken Parker, e quindi inizia a aumentare la sua presenza editoriale, quella negli anni 70. Poi negli anni 80 andremo a vedere, ne usciranno ancora di più importanti. L'altra che negli anni 70 è importante è l'editoriale Corno. L'editoriale Corno, oltre a pubblicare Alan Ford, Criminal, Satanic, che abbiamo girato prima, come mai diventa molto importante negli anni 70? Perché acquisisce i diritti di pubblicazione della Marvel. Quindi è la prima a portare in Italia serie di Uomo Ragno, Fantastici 4, Capitan America, eccetera, che iniziano a diventare anche importanti e influire, diciamo, sul fumetto italiano, sia sul disegno che dal punto di vista dello stile, del design, esatto. Poi l'editoriale Corno aveva un importantissimo contenitore, come c'era Linus, dall'altra parte c'era Eureka, no? Dell'editoriale Corno, al cui interno per esempio esordisce nel 73 Silver, l'alunno di Bombi, che poi prenderà il posto di Bombi, che purtroppo sparirà tragicamente in un incidente stradale, e nasce Lupo Alberto su Silver nel 73. Lupo Alberto diventa poi uno dei più importanti fumetti in Italia, creando poi testate autonome, eccetera, eccetera. Quindi c'ho una domanda. Sì. Perché non so né l'epoca e né il motivo, ma perché Superman in Italia si chiamava Nembo Kid? Questo risale alla prima pubblicazione di Superman durante la Seconda Guerra Mondiale, il periodo dell'autarchia. Okay. Cioè il fatto che non si potevano utilizzare parole straniere. Quindi, e tu dici, ma Kid è straniero? In realtà in quegli anni Kid era stato italianizzato e Nembo intendeva i nembi, le nuvole, quindi il ragazzo delle nuvole. Okay. Sarebbe praticamente. Che infatti poi è uguale, sì, soltanto che il simbolo, l'esagono che c'ha sul petto viene cancellato, diventa solo giallo invece che Comunque era per l'adattamento italiano e per la diciamo il periodo fascista. E che lei, come vedeva... lei come si chiamava? Nemba Kidda? Cioè, il cane, come si chiamava il cane? Rispondete sulla chat se lo sapete, perché sono curioso. Ah, io ricordo dell'editoriale Corno, che ho questo ricordo dei miei fratelli che invece erano molto, loro erano molto fumettisti e leggevano molto i fumetti, quelli di, della Marvel, no? Però ricordo che per averle quei fumetti non sempre li riuscivano a trovare in edicole, dovevano andare a richiederli all'editoriale Corno piuttosto che andare a Milano da qualche parte a prenderli. Mi ricordo sta roba, che c'era sta complicazione nel riuscire a ottenere quello che volevano tutte le volte. Forse stiamo parlando dell'ultimo periodo, perché poi la Corno fallisce nell'84, se non mi ricordo male. Quindi dalla fine degli anni 70 ai primi anni 80 diventa difficile trovare i fumetti della Corno. Io per esempio i fumetti della Corno me li ricordo perché li trovavo nei bustoni, non perché li compravo direttamente. Non so, il fratello sa che si faceva spedire, andavano a Milano, non lo so, sembrava una cosa complicata averli. Comunque un altro editore che negli anni 70 fa una cosa molto importante è quello che abbiamo citato prima, l'editoriale Metro di Bianconi, che ha in quel periodo il massimo successo, l'abbiamo citato prima per i discorsi di Tiramolla, ve lo ricordate, pubblica in quegli anni da autori molto importanti che lavoravano anche per la Disney italiana, ma in realtà poi pubblicavano anche storie originali per l'editoriale Metro, quindi Giovan Battista Carpi, Luciano Gatto, Giorgio Rebuffi, creano personaggi come Trottolino, Nonna Belarda e Geppo. Ve lo ricordate Geppo, il diavolo buono? Non l'avete mai letto? Sì, sì, Geppo. Geppo. Ecco. Oltre a questi personaggi completamente italiani, l'editoriale Metro fa una cosa molto importante, che è peculiare italiana, no? Quando tu poco fa hai detto, Simone, ma noi in Italia poi riadattavamo le cose. Sì, le riadattavamo anche in maniera pesante, perché lui prende i diritti di pubblicare personaggi di fumetti americani come Braccio di Ferro, Felix, Tom e Jerry, ma non le storie americane che venivano poi tradotte in italiano, ma come faceva Topolino, che in realtà aveva i diritti dei personaggi Disney e ideava e pubblicava le storie d'Italia. L'editoriale Metro fa la stessa cosa con Braccio di Ferro, Felix, Tom e Jerry, cioè vengono pubblicati fumetti di Braccio di Ferro, di Tom e Jerry in Italia, ma con storie inventate in Italia. In Italia. Quindi danno anche una versione molto diversa dagli originali americani. Io mi ricordo che leggevo Braccio di Ferro, c'è il personaggio di Poldo che diventa quasi un comprimario importantissimo, mentre in realtà Poldo in America era un personaggio quasi semi sconosciuto. Poldo che mangia le polpette. Esatto, io vi vorrei. In Italia diventano panini. Diventano i panini con la polpetta. In realtà lui mangiava gli hamburger, no? Cioè, nel senso che però in Italia sta cosa. Esatto. Come da noi per tantissimo tempo le colazioni erano le uova col prosciutto, no? Nel senso che in realtà non erano uova col prosciutto, ma erano uova col bacon, chiaramente. Comunque quelle storie erano proprio italiane, cioè inventate completamente in Italia. Altri personaggi importanti del periodo li trattiamo così alla veloce, perché sennò sono veramente tantissimi, però voglio sicuramente ricordare Pinky, che esce nel 73, che è una serie a fumetti di Massimo Mattioli, e esce sul Giornalino ed è pubblicata dal 73 fino al 2014. Voi avete mai letto Pinky il coniglio rosa? No. No, questo no. Grazie a Dio me lo sono perso. Grazie a Dio, veramente bello. Io mi ricordo la pimpa, sì, quella la ricordo. La pimpa sul Corriere dei Piccoli. La linea nel secondo personaggio di Osvaldo Cavandoli, che vabbè, diventa. Ne abbiamo parlato. Sì, esatto. Poi, per esempio, c'è la serie degli Aristocratici del 73 di Castelli sul Corriere dei Ragazzi, e la pimpa, giustamente, di Altan per il Corriere dei Piccoli. Negli anni 80, quindi, tutto questo boom del fumetto degli anni 70 prosegue. Da Bonelli diventata la casa editrice più importante italiana, addirittura poi nell'82 rileva un'altra casa editrice che si chiama L'Isola Trovata e pubblica la rivista Orient Express, opere e pubblica autori francesi e autori italiani, e pubblica ancora però nell'ambito del suo formato tradizionale. Nell'82 esce Martin Mister di Alfredo Castelli, che avevo citato prima per la serie degli Aristocratici. Martin Mister esce ancora oggi dall'82 anche lui ininterrottamente, ma soprattutto nell'86 nasce Dylan Dog, che diventerà il fumetto italiano fenomeno, no? Di vabbè, quegli ma già anni, la Dylan Dog siamo negli anni 90. 86, Dylan Dog. Dylan Dog in realtà non è molto anni 90 inoltrato. Dylan Dog è fine anni 80, primi anni 90. In effetti, ora che invece fai pensare, in effetti sì. Comunque, scusa Carlo, però Red Max giustamente ci dice, lui ricorda anche quando i cartoni animati giapponesi hanno avuto successo anche da noi. Sì, ci arriviamo. Ok, l'hai letto il messaggio, perché tu qui c'hai... Non l'ho letto il messaggio, okay. Però ci arriviamo perché c'è il paragrafo okay. dedicato a questa cosa. Anche perché tu c'hai un aneddoto su questa cosa specifica che lui chiede, dall'altro. Okay. Carlo, vedendo l'ultima riga qua del documento di cui non avevo trovato traccia, ma lo vedo adesso qua su questo documento, dove su Dylan Dog dice che è stato di grande successo ed è stato anche tradotto all'estero, ma sì. Una domanda che magari non c'è nel documento ma che tu sai, quanti dei prodotti italiani, ma proprio italiani, contrariamente a noi che abbiamo preso la roba americana già fin prima della guerra, c'è qualcosa che è stato preso del particolar modo dagli americani di produzione italiana? Beh, degli americani che è funzionato al contrario, cioè che noi siamo diventati nel mondo, diciamo, nel mondo, nel senso intendi Europa, intendo anche altre nazioni, anche sì, mi curiosiva l'America, ma facciamo nel mondo dai, in generale l'America è più difficile, l'America è un mercato più difficile. Io so che comunque Dylan Dog c'ha avuto una rilevanza internazionale. Dylan Dog, no? sì Dylan Dog sicuramente, però più di Dylan Dog sicuramente Valentina, Ugo Pratt sono tra i personaggi più che hanno avuto più successo nel mondo. Sì. E Corto Maltese, scusami, di Ugo Pratt. Ah, Corto Maltese sicuro, certo. Sì, Corto Maltese di Ugo Pratt e Valentina di Crepax hanno avuto un successo, diciamo, planetario. Dylan Dog sicuramente, Martin Mister anche, tradotto in lingue. Martin Mister è sempre stato un fumetto anche. Strano, che non ho mai capito bene, devo dire la verità, insomma, però... Io lo prendo ancora. No, vabbè, non è una critica la mia, insomma. Tra l'altro Corto Maltese, sì, io ricordo anche soprattutto in Francia, che era amatissimo. Francia tantissimo in Francia, tantissimo in Europa in generale, anche nei paesi arabi molti fumetti italiani sono stati tradotti. Se devo pensare proprio specificamente agli Stati Uniti, per assurdo il fumetto italiano che ha avuto più successo negli Stati Uniti è in realtà un fumetto americano che poi abbiamo fatto noi, cioè i fumetti di Topolino, perché in realtà la produzione Disney, ma questo ne parleremo poi quando faremo la puntata di Disney, la produzione Disney italiana di fumetti è stata quella poi più diffusa al mondo, quindi è ritornata indietro anche. Ecco, infatti questo ti volevo chiedere, cioè tutti i personaggi che sono nati in Italia poi sono arrivati anche in America oppure sono rimasti? Sono arrivati anche in America come fumetto, perché la Disney americana, quindi non ufficialmente, però come fumetto sì, insomma, diciamo. Esatto, produceva pochissimi fumetti in confronto alla Disney italiana. Vabbè, che certo, è diventata la fabbrica del fumetto Disney nel mondo, diffondendo il fumetto Disney anche in Sud America, per esempio, anche in altri paesi esteri. Vabbè, ne parleremo poi interessante questa cosa, sì. Esatto. No, la mia era una curiosità generica, stiamo parlando di fumetti, mi interessava capire quanti dei nostri prodotti italiani sono. Sì, poi il fumetto erotico ha sfondato molto, come dice, come vedremo. Sì, poi, esatto. Vabbè, Valentina è il numero uno, ma poi esatto. Anche tanti altri. Comunque, cosa succede? Quindi la Bonelli dagli anni 70 e 80 esplode, l'editore Record è il contrario, perché dal precedente, dove era diventata veramente importantissima, nel 79 inizia a entrare in crisi e nel giro di pochi anni chiude molte testate storiche e fallisce nell'84. Adesso non entro nei dettagli, anche perché non li so come mai l'editoriale Corno si trovò da essere una delle più grandi editori italiani di fumetti insieme alla Bonelli a scomparire in pochissimi anni. Però questo portò un po' una crisi, soprattutto la crisi del fumetto statunitense in Italia, perché prima che poi ritornò passarono praticamente quasi metà degli anni 80 e metà degli anni 90 prima che ritornò al fumetto americano in Italia. Silver, che pubblicava sull'editoriale Corno, passò alla Glénat, che era una casa editrice francese che entra in Italia e fece esordire poi un albo addirittura dedicato totalmente al personaggio di Lupo Alberto, il famoso Lupo Alberto Magazine, finché addirittura nell'89 Silver diventa addirittura editore lui stesso e fonda la casa editrice, l'Acme dei Silver, che esiste ancora oggi. Nel 1980 esordì anche un altro importante mensile, che edizione romana, con la casa editrice romana, che si tratta di il mensile Frigidaire. Ve lo ricordate Frigidaire? No. L'avrete... Sì. Sì, come so. Nome sì, però non... Vabbè, comunque lì nascono anche lì tantissimi fumetti italiani molto importanti, tra cui un altro fumetto che avrà un successo internazionale importantissimo, che è Rank Xerox di Stefano Tamburini e Tanino Liberatore. E poi soprattutto su Frigidaire ci pubblicò anche... Con Frigidaire su Google mescono fuori i frigoriferi, poi... Cioè, vuol dire proprio frigorifero. C'era Rank Xerox di Tamburini e Liberatore, e soprattutto esce i fumetti di Andrea Pazienza, Zanardi, oppure anche Ramarro di Giuseppe Balumbo. Cioè, sono i fumetti, diciamo, di denuncia sociale, eccetera, del Primo Carnera, il Dottor Jack di Scozzari, insomma. E poi ci sono altri nomi importanti, Massimo Mattioli, che ho citato prima, che sul Corriere sul giornalino, scusami, pubblicava Pinky. Su Frigidaire pubblica Joe Galaxy, che è un fumetto comico di fantascienza molto divertente. Comunque tanti autori italiani si formano su questo mensile romano Frigidaire, che esce nel 1980. E qui arriviamo al commento che faceva il nostro Red Max, perché cosa succede negli anni 80 anche? Negli anni 80 nasce un genere strano che io ho chiamato il clone manga robotico italiano, perché in pratica dal successo dei primi anime che arrivavano, quindi i primi cartoni animati che arrivavano in Italia, di cui abbiamo fatto la famosa puntata sulle sigle dei robottoni, che se volete potete andare a recuperare, quindi a partire dalla fine degli anni 70, quindi nel 78, questo successo ovviamente del cartone animato porta anche a dire vabbè, facciamo i fumetti, no? Ma in Italia, come al solito, al posto di prendere i fumetti originali e tradurli, si inizia una produzione originale in Italia di riduzione da fumetti dei cartoni animati che avevano successo. Quindi le edizioni Flash fa una riduzione a fumetti di Goldrake, ma con sia disegni che storie inventate in Italia a partire dal 78, e così poi prosegue facendo Astro Robot dal numero 97 del 1980. Poi fanno Star Blazers, la Salani, che pubblica una collana di volumi dedicata invece a Mazinga, con storie di Mazinga Z, anche queste inventate e disegnate in Italia. Una cosa che mi ricordo di quelle storie erano i disegni bruttissimi, non so se potete guardare, ho messo già messo in live ok, una cosa orribile come disegno, per non parlare dei testi, no? Le avventure di Candy anche vengono fatte su testi dello staff di IF, Alfredo, Adriana Saio, Marcello Toninelli, disegni di Ambra Costa, cioè tutta una produzione italiana, anche prosegue per anni, perché dal successo dei cartoni animati Astro Robot, Gatchman, Jig, Candy eccetera, ma non nasce solo una produzione degli originali, quindi con i diritti reali di quelli veri, ma anche nascono fumetti paralleli che si ispirano ai personaggi, ma senza avere ovviamente i diritti. Per esempio, escono la saga fumetti di Capitan Sherlock, sì, è praticamente come Capitan Harlock ma con Sherlock Holmes, no? È un misto tra Goldrake e Capitan Harlock, con non so, c'è la regina Nefera che sembra la regina Raflesia, la regina delle Mazzoniane, al comando di un vascello marino si chiama Albatros che viaggia nello spazio. Insomma, esce nel 79 per le edizioni EPR, edizioni periodiche. Questo, per ragazzi. Questo non lo trovo, devo dire la verità, non lo trovo. Capitan Sherlock. No. E poi nasce anche Big Robot di Alberico Motta. Grande, grande Big Robot, grande. Big Robot. Grande. Applausi, grande, perché questo. E nasce per le edizioni Bianconi, no? Le edizioni Bianconi sono quelle che ho citato prima, quelle di Braccio di Ferro, Provolino, Geppo, Nonna Belarda, Tiramolla, eccetera. È proprio per una lettera, è Gig Robot, Big Robot. Esatto, Big Robot. Grande, grande. Bisogna riconoscere comunque che ci vuole la fantasia. E Alberto Motta. Questa è solo roba per italiani, cioè un americano non gli viene in mente una roba così. No, solo noi potevamo fare. E poi un misto, no, dei manga di Mazinga, Goldrake, Gig Robot messo tutti insieme. Il numero uno esce nell'80 con una periodicità un po' strana, non troppo costante. A casaccio, poteva passare un mese, due mesi, tre mesi da un numero all'altro. Però questo dura 12 volumi, questa serie di Big Robot, e poi viene interrotta così, senza nessuna motivazione. Quindi neanche il finale, insomma. Esatto. Poi non so se l'aneddoto che riguardava era il discorso famoso che anche le, diciamo, il genere quello erotico poi prende ispirazione al genere robotico e crea il genere erotico robotico, ma quello forse è meglio che la citeremo nella puntata quando sarà esatto, quello è divertentissimo, c'è un fumetto che fa morire da ridere, insomma, a rivederlo oggi. Comunque, cosa succede negli anni 80? Ne succedono ancora di tantissime. Una che posso citare, che nell'89 esce Ratman di Leo Torani, esordiscono anche Stefano Disegni e Massimo Caviglia, sempre nell'89 con Lo Salviamo Noi Cinema, la serie che poi esce su Chuck in maniera fissa. Vabbè, Stefano Disegni e Massimo Caviglia creano anche tantissime altre serie importanti di satira. Esce il Cuore in edicola, ve lo ricordate? Il mensile, sì, di satira. Però lì è proprio satira, quei fumetti c'entra fino a un certo punto, insomma. Villain Dog, come ho detto, arriva addirittura a vendere 500.000 di copie al mese, viene più volte ristampato, diventa il secondo fumetto più venduto in assoluto in Italia dopo Tex, ma soprattutto questo grandissimo successo di Villain Dog fa nascere anche un genere, come aveva fatto Diabolik negli anni, alla fine degli anni 60, anni 70, facendo nascere quel genere, no, del criminale, eccetera, criminal, sì, eccetera. Dylan Dog fa nascere il genere investigatore del fumetto horror. Esatto. Non solo dell'occulto, proprio horror. Anche perché poi quel periodo lì è il periodo anche che il cinema ha il successo dell'horror al cinema in quegli anni. Vi ricordate Nightmare on Elm Street? Gli anni d'oro, sai dire, esatto, tutti. Poi nasce il cinema splatter e nasce anche la rivista Splatter, no? Splatter e mostri della Acme, che ci sono addirittura poi delle interrogazioni parlamentari che le fanno vietare. Vabbè, ai minori, stranamente da noi interrogazioni parlamentari sempre c'erano i vari splatter, dice giustamente Red Max, cioè che abbiamo appena detto. Esatto, l'Acme era la casa editrice fondata. Tra l'altro, io devo dire la verità, sì, che non c'era un amico che io conoscevo che non leggeva Dylan Dog. Cioè, Dylan Dog proprio era. Mezzo milione di copie, era tantissimo. Era il fumetto che forse aveva riportato anche in auge la lettura del fumetto proprio, perché. L'aveva diffusa a numeri che non erano propri, diciamo, del fumetto. Il fumetto ha sempre, diciamo, avuto successo, ha ancora successo, ma i numeri sono limitati, diciamo, a una nicchia, cioè non è un successo di massa. Non puoi dire che tutti leggono i fumetti. Certo. i fumetti hanno degli stimatori che lo seguono. Sì, però in quel periodo lì, fine anni 80, anni 90, comunque io tutti gli amici che conoscevo, anche che magari non erano abituati, c'erano le collezioni intere, tutti i numeri di Dylan Dog, che insomma andava proprio, spopolava sia quello che Martin Mister, però secondo me Dylan Dog era Dylan Dog, cioè non c'era assolutamente discussione su questo, e questo mi affascinava perché dicevo, deve essere proprio figo sto Dylan Dog. Poi mi sono letto qualche numero e non lo so, è proprio che non era proprio, non, è un problema mio, chiaramente. No, beh, anch'io i fumetti li vivevo un po' di riflesso, se vogliamo. Io avevo due fratelli più grandi e non è che avessi una scelta io di fumetti, io leggevo quello che avanzava da loro, se vogliamo. Quello che si riusciva ad aprire senza. No, ma in una famiglia con tre figli, uno più grande e uno più piccolo, si girava tutto, sì, no? Sì, la cartella della scuola, i libri, eccetera. Anche i fumetti. E ricordo che i fumetti che leggevo erano appunto quelli che poi in realtà interessavano a miei fratelli. Mi ricordo anche che Tex era uno dei pochi fumetti che invece comprava e leggeva mio padre, che invece noi figli non abbiamo mai letto particolarmente, io non ne ho letti pochissimi, anche i miei fratelli credo. Invece c'era mio fratello più grande, era su Diabolik, cioè proprio lui e il suo fumetto era Diabolik, e quindi poi io me li ritrovavo quando non avevo più niente da leggere, da fare, in bagno tipicamente c'era il Diabolik, era proprio quando non c'era niente da fare si leggeva Diabolik. Mio fratello invece era più sui supereroi, quindi editoriale Corno, e quindi tutta la roba di Fantastici 4, Uomo Ragno, Capitano America, Hulk. Lui era veramente proprio assatanato, e per quello ti dicevo che c'era proprio questa ricerca di sti fumetti. Poi ho avuto invece, come molti di voi, sicuramente Carlo al 100%, è cominciata invece la collezione dei fumetti. Mm-hmm. Io ho avuto un fratello, quello più grande, che ha cominciato a collezionare fumetti, quindi andare a comprare, e c'era il come si chiamava, cacchio, i negozietti che vendevano i fumetti usati, che erano dei piccoli bagarini sulla strada che aprivano con due ruote. Ci sono ancora oggi che vendono i libri usati, Questi qua vedevano i fumetti e c'era questa ricerca. Le bancarelle a Roma c'è stato proprio un mercatino, soprattutto quando iniziano le scuole a settembre a Colli Albani, cioè comunque un quartiere di Roma dove praticamente c'è stato sterminato mercatino dei libri, e ovviamente tra tutta sta roba ci sono anche i fumetti. Certamente. Cose, insomma, e mio fratello, quello più grande, ricordo che aveva tutta la raccolta di Topolino, e aveva il numero 1, 2, 3, e sfoggiava la sua raccolta di Topolini, tra cui appunto i famosi primi 10 numeri, che sono quelli più rari. E poi, sì, ovviamente, perché anche lì rientra il meccanismo del collezionismo, che è stato importante, sì, anche quello. Che poi tu hai il numero 1 ma c'ha una piega, allora cerchi il numero 1 senza la piega, con la copertina più bella, per cui è una continua ricerca di qualcosa di meglio, fino ad arrivare al nuovo completamente mai letto, mai aperto, comunque vabbè. E poi aveva la collezione di tutti i Diabolik, ce li aveva tutti, e poi aveva cominciato a collezionare anche tanti altri fumetti che comprava e non li leggeva proprio nemmeno, ce li comprava, li impacchettava e li metteva via, perché diceva, questi un giorno diventeranno una collezione. È uscito oggi il nuovo Topolino, che ne so, Super Pippo, che era una nuova serie mai vista, e lui lo comprava, lo confezionava, lo metteva lì e non neanche lo apriva, neanche lo leggeva, lo ficcava lì e li comprava solo per collezionarli, finché alla fine un giorno dirà, vedrà che tra 10 anni, 20 anni il numero 1 di Super Pippo avrà un valore della Madonna. In alcuni casi poteva aver ragione, in altri no, in alcuni sì, dipende, era un po' una scommessa, certo, ci sono alcuni casi che sono diventati da collezione, altri che invece non valgono niente ancora oggi. Però se lui dice, io lo tengo nuovo impacchettato, non lo apro nemmeno. Ma ci sono ancora sti fumetti? E dipende, alcuni sì, alcuni no. No, io dico le collezioni del fratello di Davide, dico, ci stanno ancora. Non c'è più niente, no, non è nulla. A un certo punto poi, tutte le cose. Destino. No, ci sono delle persone, tipo, cito sempre Carlo, che è un collezionista, come si può dire, compulsivo. E quindi lui la roba la prende e la terrà per sempre. E, mentre invece ci sono quelli che iniziano come iniziano con i francobolli, sono tante cose, sì, poi si stancano. Sì, vabbè, però pure questo è sempre molto relativo, perché come abbiamo detto nella puntata che con Carlo abbiamo fatto con Bonaventura Di Bello, in realtà quando noi possedevamo determinate cose non gli davamo il valore che avremmo potuto dargli 30 anni dopo, no? Cioè, nel senso, non ci immaginavamo neanche lontanamente che quella cosa potesse un giorno avere un valore affettivo o dei revival. Noi vivevamo il presente per quello che era. Quando dopo il VIC 20 usciva il Commodore 64, con il Commodore 64 te ne fregava un cazzo il VIC 20, cioè. Poi dopo, ovviamente, a posteriori tu dici, cioè, nel senso, il legame che puoi avere con una determinata cosa o il valore anche collezionistico che potrebbe avere, ma tu allora che ne sapevi? Chi ha avuto la fortuna di conservare quelle cose perché aveva una famiglia che metteva le cose in soffitta e se ne dimenticava, se no la maggior parte delle persone hanno preso e hanno buttato tutto, cioè, ma... oppure chi aveva una malattia come la mia, che quando devo buttare qualcosa mi viene male, quindi la tengo. Sì, però avrai buttato anche tu qualcosa che magari a posteriori hai detto mannaggia, non l'avessi buttato, no? Cioè, figurati. Allora, più che buttato, le cose, i famosi mannaggia che ho io sono le cose proprio come dicevi te, che non gli davi il minimo, che non avresti mai pensato, esatto, ma neanche lontanamente, esatto, che quella cosa lì sarebbe potuta diventare qualcosa di valore in futuro, e quindi non l'avevi neanche considerata all'epoca, quindi, c'era un'altra cosa negli anni 70-80, che c'era una visibilità di riuscire a completare una collezione, perché il Topolino arrivava al numero 150, che ne so, Tex arrivava al numero 130, tu sapevi che dovevi trovarne 130, mentre invece oggi devi trovarne 650, devi trovarne 7000. Dipende. All'epoca era un periodo in cui uscivano e tu ti sei perso i primi numeri perché appunto non gli davi valore, eccetera. Sì, però quello che volevo dire io in sintesi è che negli anni 90, fine anni 80, quando la gente ha cominciato a comprare Dylan Dog, il senso di conservazione già c'era come tipo di sensibilità. Alla fine degli anni 70, inizio anni 80, sta cosa forse c'era di meno. Io mi ricordo che avevo un armadio, anzi un sottotelevisore, cioè c'avevo il televisore con un mobile dove dentro c'erano tutti i The Games Machine dentro, e che poi dopo col passare degli anni magari siccome erano tantissimi non sapevo più dove metterli, avevo ritagliato magari, ne so, le pagine delle soluzioni o roba, poi mia madre ha preso ha buttato tutto, cioè, nel senso, ma proprio perché, ribadisco, non c'era proprio la percezione, era poi soprattutto per le madri era una rottura di coglioni che stavano lì a far polvere, insomma, giustamente, certo. Comunque io volevo finire soltanto dicendo una cosa e poi dopo ritorniamo a Carlo, che sì, il mio rapporto con i fumetti è sempre stato molto complicato, perché a me mi affascinavano le copertine che erano belle, colorate, poi entravi dentro al fumetto e il fumetto per la maggior parte delle volte, diciamo genericamente era così, il fumetto era in bianco e nero. Questa cosa del fumetto in bianco e nero con queste linee molto marcate, quindi non c'erano sfumature, insomma è il tratto tipico del fumetto, a me mi creava proprio dei problemi. Io non riuscivo a guardare le immagini, cioè mi ha sempre dato proprio insomma tipo che astigmatico, no, roba del genere, che mi si intorcinavano le linee, per me era inguardabile, i fumetti per me erano solamente inguardabili, tranne quegli pochissimi albi che erano interamente a colori perché magari erano un'edizione speciale o un numero commemorativo o qualcosa di particolarmente importante, e allora lì il fumetto io riuscivo a godermelo, me lo riuscivo a guardare e a leggere senza problemi, se no in generale comunque non sono mai stato un grosso patito, e i fumetti che leggevo, e ne abbiamo citati tanti, alcuni di quelli che ecco sul Truppen e vabbè tutte le cose, anche quelle vecchie, il Corriere dei Piccoli, tutte quelle cose che mi sono trovato in casa o che mi sono arrivate di striscio tramite amici, comunque quelle cose magari me le sono lette, però io di persona, proprio io non ho mai comprato un fumetto in vita mia, ma non è un vezzo, cioè nel senso, dico, oh, guarda questo, proprio perché non ero compatibile con il medium, proprio una cosa non era più forte di me. Mi fai venire in mente la tua amica, quella con due nasi, eccetera. Sì, Desiree. Desiree che magari se c'era, che aveva tre occhi, aveva anche difficoltà nella lettura. Esatto. Non lo so, non gliel'ho mai chiesto a Desiree, non ha fatto in tempo, sono scappato prima. Vabbè, vabbè, comunque super erotico, ci condivido, attenzione. Se ne parleremo, ne parleremo. C'è la puntata apposta. Vabbè, io in realtà abbiamo finito perché siamo arrivati adesso, non andiamo oltre gli anni 90, perché se no andiamo veramente oltre. L'unica cosa che mi era rimasta da citare è che Bonelli poi tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 diventa talmente una realtà importante con il grande successo di Dylan Dog e di tutte le sue serie che arriva a dire addirittura a far nascere delle nuove serie di fumetti come quella di Nathan Never, che addirittura all'esordio il primo numero raggiunge 300.000 copie, una roba mai vista nel mercato italiano, quindi cioè un fumetto che non esisteva il giorno che esce, certo, fa 300.000 perché ormai c'era l'hype, no? Quindi, perché ormai esatto, sì, c'era l'hype sulla scia del successo dei fumetti di Bonelli. Esatto. Tra l'altro io Nathan Never, Martin Mister e Dylan Dog hanno mai fatto un crossover? Più volte, più volte. Ero curioso, insomma, sì, sì, sì. Non solo, anzi recentemente addirittura una cosa che io non avrei mai pensato succedesse nella mia vita in nessun modo, eppure è successo. La Bonelli ha fatto un accordo con la DC Comics proprio quest'anno, cioè l'anno scorso, scusami, quindi nel 2021, e sono usciti i crossover tra i personaggi DC Comics, quindi Superman, Flash Gordon, eccetera, e i personaggi Bonelli, no, cioè Flash Gordon che si è incontrato con Zagor, oddio, Superman con Nathan Never, cose così, cioè, per dire, multiverso, cose che si i difensori. Ah, super eroica, non erotica, scusa, ho letto male. Vabbè, ormai c'è la deformazione, si è fatta una certa, no, quindi non solo ci sono stati è lo stigmatismo, esatto. Non vede le righe bene, no, io non vedo proprio, quindi non ha visto la T, esatto, questo mi ricorda che quando iniziamo a fare Calavera Caffè, che era un podcast sulle avventure grafiche, c'era un ascoltatore che ci scriveva sempre e si chiamava, e poi dopo è diventato anche lui youtuber e podcaster e fa adesso Calavera Caffè al posto mio fondamentalmente, che lui si chiama Gianluca Santilio, solo che questa ILLI tutte mi appiccicate, io non mi sei capito, e quindi io lo chiamavo Gianluca Santillo, per me era Gianluca Santillo e tutte le volte Gianluca Santillo, poi una volta mi scrive guarda che è Gianluca Santilio. Comunque vabbè. Sì, comunque era per rispondere alla tua domanda, non solo ci sono stati crossover tra i personaggi Bonelli, ma crossover tra i personaggi Bonelli e addirittura quelli della DC Comics, quindi figurati, altro che crossover. Allora, più, Marco Cipolla ci dice che i crossover sono stati siglati nel 2019. Esatto. Ed è dal 2021 che è uscito il numero zero del primo crossover Zagor Flash, dai, grande, pensate, sì, che roba. Quindi vabbè, esatto, tutte queste cose vanno. Carlo, qual è stato il tuo fumetto, il fumetto della tua vita proprio? Vabbè, allora innanzitutto ho iniziato come tutti i bambini negli anni 70 con Topolino, perché Topolino era Topolino, lo prendevano tutti, eccetera. Sì, Topolino lo leggevo pure io, sì, effettivamente tutti, sì. Tutti prendevano pure Topolino, io direi quello sicuramente, e soprattutto tutte le storie mi colpivano tantissimo e ancora oggi sono quelle mie preferite, le storie disegnate da Giorgio Cavazzano dell'epoca. Cavazzano è uno dei più importanti autori anche italiani di fumetto, che poi ha fatto anche suoi fumetti ideati da lui, però è famoso proprio per essere il Disney italiano più famoso. Se tu riconosci il tratto di Cavazzano, quando lo vedi dici ah, ma questa era una delle storie belle che mi ricordo di Topolino, insomma, era sempre così, aveva uno stile inconfondibile. E a me sembravano tutti uguali, devo dire. No, c'erano dei Topolini che quando li guardavi dici Madonna che brutta Roma. E disegnati che ci vedeva che era tutto di... E il contrario, c'erano dei Topolini e quando li vedi dici cacchio che belli che sono, esatto. Erano quelli di Spazzano. E poi il giornalino del San Paolo Edizioni, che anche quello prendevo tutte le settimane da piccolo, e lì dentro il già citato Pinky di Massimo Mattioli, è stato uno dei miei fumetti fondanti dell'epoca, di quando ero piccolo, ecco. Poi vabbè, poi sono cresciuto a fumetti, perché poi da lì ho iniziato a leggere di tutto, quindi diciamo che poi da lì ho iniziato a prendere i fumetti più importanti, come i Bonelli e così via, fino ad arrivare anche ai fumetti dagli Splatter ai fumetti della Frigidaire, Rank Xerox, poi a leggere i fumetti quelli di Pazienza, insomma. Tu scrivi Frigidaire, Xerox, giustamente escono fuori questo negli primi anni, ovviamente tantissimo fumetto italiano. Poi dopo beh, sicuramente quando sono iniziati a arrivare gli anime, i manga, ho iniziato a leggere anche gli anime, i manga, ma leggevo anche tantissimo fumetto americano, perché mi piacevano anche i fumetti corno, che recuperavo perché non uscivano in quegli anni, quindi recuperavo dei bustoni, no? E quindi leggevo questi Fantastici 4 eccetera. E poi quando sono riiniziate le riedizioni dei fumetti americani in Italia, ho iniziato a prenderli, fino ad arrivare poi, quando sono diventato maniaco, a ordinare direttamente i fumetti americani in edizione americana, inglese, negli Stati Uniti, e farmeli arrivare nella cassetta postale. Quindi insomma, in inglese, però, giustamente. Leggevo in inglese direttamente. Vabbè, comunque il fumetto era fattibile. Il fumetto fumetti francesi, Asterix di Coscini e Uderso. Asterix è stato anche quello uno dei miei fumetti preferiti. Beh, Asterix, per tantissimi anni. I cartoni animati erano fighi comunque. La riedizione degli albi a fumetto che uscivano, quindi erano esattamente le stesse. Marco storie. Ci dice che è uscito anche il numero zero del crossover Nathan Never Justice League, quindi insomma, già comprato. Sì, ah, già, tu hai già dato, capito? Vedi, perché sei rimasto bambinone dentro, tu, capito? Quindi. Sì. Comunque ricordo che Topolino è stato uno dei pochi nel quale sono stato abbonato, cioè mi arrivava nella casella della posta e lo trovavo già lì. Anch'io per un po' di anni sono stato abbonato a Topolino. Sì, anch'io. Sì, no, l'abbonamento se ce l'avevo pure io, devo dire la verità. Mio fratello, poi ovviamente di conseguenza, però Topolino sì, me lo guardavo, perché Topolino per esempio era uno di quelli che era tutto a colori, se non sbaglio, se non dico una cazzata. Sì, ma guarda che tantissimi fumetti italiani erano tutti a colori. Io non me ne ricordo uno. I Bonelli erano in bianco e nero, ma per esempio sia i fumetti, quelli comics più famosi come Topolino, ma anche i vari Geppo eccetera, anche se in realtà erano alternati, esatto, fino alla metà degli anni 80 non erano tutti a colori, ma avevano un tot di pagine a colori, esatto, sì. Quindi per me un tot in bianco e nero, un tot a colori, era come i film sovietici, che un po' venivano girati in bianco e nero e un po' venivano girati a colori, no? Le prime vignette a colori e poi dopo l'interno diventava in bianco e nero, poi magari c'era la scena clou che era a colori e così via. Insomma, ad esempio, per farvi proprio un esempio, se volete recuperare la versione originale sovietica di Solaris, e Solaris è uno di quei film che è girato un po' a colori, un po' in bianco e nero, e probabilmente anche per ragioni di costi produttivi, costi della pellicola, insomma, esatto, certo. Cioè, perché comunque quella in bianco e nero costava la metà, mio, insomma, quindi sì, probabilmente sì. Io ricordo anche, perché mio fratello, che leggeva spessissimo, cioè la compravo ogni settimana, la settimana enigmistica, in qualche modo la settimana enigmistica aveva comunque dell'intrattenimento, a parte l'enigmistica. Vabbè, c'era Sansone, il cane gigante Sansone, Sansone era in Topolino, scusami, nelle vignette. No, c'erano comunque delle mini strisce, magari da 3 o 4. Sì, c'erano delle vignette, c'erano alcune strisce, e poi c'erano i rebus anche, che pure quelli erano comunque carini, perché comunque era un intrattenimento visivo in qualche maniera. Non dovevi stare lì, comunque, certo. Aveva detto un po' di tutto, ecco. Sì, e anche quella era una roba che leggevo. Era bella, è vero. Forse Handicap c'era sulla settimana di Mister. Sì, alla fine dietro, hai ragione. Dietro Handicap. La parte finale dietro c'aveva tipo una pagina di 4-5 striscette di Handicap. Sì, era proprio di ricordavo. Va bene, dai, niente. Finita la puntata. No, è bello con te, sempre così entusiasmante, insomma. No, comunque, invece Davide, al di là del fatto che tu non hai comunque, come me, qual è stato il tuo fumetto, indipendentemente dal fatto che non eri un appassionato. Non ero appassionato, e come ti dicevo, ho vissuto di eredità e sono stata una zecca praticamente. Non ho mai comprato un fumetto, non andavo mai in edicola. E Topolino, vabbè, quando ero proprio piccolo, un po' da più grande, leggevo quello che i miei fratelli compravano, che erano a volte Diabolic, ma molto più frequentemente ciò di cui parleremo nell'episodio erotico. che erano i fumetti che andavano per la maggiore, tutti i vari sì, e che si trovavano con disinvoltura nel tavolino del barbiere, sì, diciamo, nel barbiere c'erano, ma soprattutto erano tra virgolette tollerati in casa, se vogliamo. Guarda, poi su questo ne parleremo, perché esatto, ne parleremo, perché anch'io dei fumetti, ma in realtà non lo erano. Io invece devo dire, al di là di Topolino, no, erano dei fumetti, cioè tutto sommato erano dei fumetti, c'erano anche delle storie, solo che poi dopo c'era la parte scopereccia più o meno esplicita a secondo se era un fumetto erotico o se era un fumetto porno. Comunque anch'io, per me, se proprio devo dire un fumetto, devo dire Topolino, assolutamente. E se proprio devo dire che c'era un fumetto che in effetti compravo, era il fumetto della Pemaglia, perché voi sapete che la Pemaglia è stata una mia malattia proprio da ragazzino, e questa è una cosa, vola la Pemaglia, esatto, non sapevo neanche ci fosse il fumetto. Volevo dire questa cosa della Pemaglia, però racconto solo questa cosa e poi chiudiamo, che mi ricordo che eravamo a Cattolica e mia zia vede il fumetto della Pemaglia in edicola, gli dice: posso prendere il fumetto? Era scritto Yes, Fragen, Klicken, perché era in tedesco, perché ovviamente lì all'epoca d'estate c'erano tantissimi turisti tedeschi, e la signora, insomma, l'edicolante dice: no, ma guarda che in tedesco, non fa niente, tanto lui non legge, guarda solo le figure. E questa non gliele voleva vendere sto cazzo di fumetto, proprio non lo si era impuntata. A fine capirai con mia zia, che vabbè, voi non la conoscete, ma insomma, gli ha smontato mezza edicola, alla fine gli ha dovuto comprare questo fumetto in tedesco. Ok, allora ragazzi, vi ricordo semplicemente che domani mattina alle ore 7 torna Leo con il mattino lavoro in podcast, che domani sera torna Runtime by Night alle ore 23, quindi chi vuole, insomma, può partecipare tranquillamente, e che sabato mattina alle 8:30 saremo live io e Michela con il nostro bellissimo crossover, e poi successivamente inizierà la settimana di Runtime come sempre. Vi ricordo invece che questo appuntamento, quindi quando eravamo futuro, torna giovedì con quel tema abbastanza particolare relativo ovviamente agli handicap e la sensibilità, la percezione che c'era negli anni 70 e 80, che è un tema abbastanza importante. Vi ricordo di andare su www.rantameradio.it, andare sul tasto anche io, e se volete, avete l'opportunità, fate una donazione, una tantum, tramite PayPal o ricorrente tramite Patreon, perché sostenete il nostro progetto che ha perso un patreonista durante questo periodo. Rido perché lo so io, però insomma, se vi capita, insomma, date una mano al nostro progetto, che come sapete è a gratis, però lo facciamo con passione, però insomma, se qualcuno poi contribuisce è sempre un bene. Ringrazio e saluto ovviamente Davide Gatti. Saluto a tutti, grazie per essere stati con noi a fare questa carrellata di ricordi del bellissimo passato, come sempre facciamo in questi episodi. Perfetto. E vi ricordo sempre Survival di andare a trovarmi ovunque, dove voi cercate Survival Hacking, voi scrivete Survival Hacking e mi troverete, basta. Sì, andate su YouTube, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, guardate i video, mettete like e condividete. La stessa cosa salutando Carlo Sant'Agostino. Eccoci qua, buonanotte a tutti. Sicuramente la stessa cosa per quanto riguarda archeologia informatica, che oltretutto in questi giorni abbiamo pubblicato un interessantissimo e bellissimo documentario sul museo del videogioco di Avezzano, che sta riscuotendo un ottimo successo, quindi se volete andare a guardarlo, se non l'avete ancora visto, andate sul canale di archeologia informatica su YouTube e ovviamente mettete il like, iscrivetevi al canale soprattutto, mi raccomando. Esatto, e domani esce un nuovo video, tra l'altro. Quindi, insomma, sì, domani esce il video nuovo, sì. Minore, ma comunque sempre carino. Esatto. Bene, detto questo, io chiaramente vi ringrazio e vi saluto a tutti quanti per la vostra pazienza e per l'ascolto che ci avete dedicato. Sto perdendo un attimo di tempo perché mi serve riprendere in mano il programma di regia. Eccolo qua. E buonanotte a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.